in primo piano. Mercoledì 22 giugno, vediamo qualche apertura. Il Sole 24 Ore apre: liberalizzazioni al palo, Catricalà senza concorrenza, economia a rischio. È l'allarme del presidente dell'antitrust, che sarà ospite di Oscar Giannino alle 9. Berlusconi resiste, una crisi è follia, così titola il Corriere della Sera. Per La Stampa, il premier: follia aprire la crisi. Per Libero, la maggioranza c'è, adesso usatela. Il Giornale, tasse, tre sole aliquote. Questi sono i quotidiani che aprono dunque sulla fiducia ottenuta ieri alla Camera e il discorso invece al Senato. Oggi ci sarà un'altra fiducia, voto di fiducia. Il discorso erano le parole di Berlusconi. Per Repubblica invece la vicenda P4, ecco la grande ragnatela, questo è il titolo di apertura. Così il Fatto Quotidiano, Eni e Rai nelle grinfie della P4. L'Unità invece apre sulla scuola, mal di test, il disastro Gelmini, sbagliate le griglie dell'Invalsi all'esame di terza media. L'apertura del Messaggero, ministeri schiaffo alla Lega. Vabbè, vedremo nel dettaglio la politica più avanti. Intanto le segnalazioni da cui voglio partire, la prima la troviamo in prima pagina di Repubblica, in taglio basso, vale a dire in basso a prima pagina, la benedizione degli sposi gay. E Natalia Aspesi che ne scrive: volete scambiarvi le fedi? No, grazie, le portiamo già. E i confetti troppo tradizionali. Sarà un matrimonio secondo il rito valdese. La benedizione di Ciro Scelsi, 42 anni, architetto di famiglia battista, e Guido Lanza, 62 anni, ex analista programmatore, adesso pensionato, valdese, che sarà invocata il 26 giugno. Così inizia l'articolo resoconto del primo matrimonio in chiesa valdese di Ciro e Guido. I valdesi rompono il tabù delle nozze gay. A pagina 23 all'interno ne parla Natalia Aspesi. Per i valdesi, come per le altre fedi protestanti, il matrimonio non è un sacramento, perché Gesù non ha sposato nessuno. Perciò i loro pastori e le loro pastore si limitano a benedire la coppia che vuole sancire la propria unione. Dall'agosto del 2010 il Sinodo ha lasciato libere le sue singole chiese di benedire anche le coppie dello stesso sesso ed è la Chiesa di Milano la prima a farlo nel suo prossimo rito domenicale. Dunque sono Ciro e Guido che da quel momento, scrive l'Aspesi, otterranno dai loro fratelli di fede il riconoscimento, il rispetto, l'accoglienza del loro amore e del loro progetto di vita in comune. Solo che a differenza delle altre coppie etero, anche di fede valdese, che possono sposarsi civilmente, loro non avranno diritto ad essere riconosciute come coppia di fatto perché, come si sa, le nostre leggi non lo consentono. Ora, il pastore Giuseppe Platone della Chiesa di Milano, intervistato in questa dichiarazione a Repubblica, dice: non è nostra intenzione sacralizzare l'omosessualità, prendiamo solo atto di un legame vissuto nella responsabilità e reciprocità. È una cosa bellissima. Mi scandalizza invece l'ipocrisia o quell'acido spirito che si serve delle scritture per discriminare e oltraggiare. Insomma, questo è il resoconto di Repubblica del primo matrimonio, anche se di rito valdese, quindi non un vero e proprio matrimonio, come ha spiegato Natalia Aspesi, che domenica sarà celebrato nella chiesa valdese di Milano. E poi mi ha colpito come seconda segnalazione qualcosa che abbiamo sentito anche nel GR in una breve. Beh, il quotidiano nazionale ci fa una pagina: vita da clochard, ma era ricchissimo. Un 94enne che ha passato, tra l'altro una roba incredibile, veniva da Collodi, no? Proprio in provincia di Pistoia, come il paese di Pinocchio. E questo anziano, che è morto a 94 anni, gli ultimi anni passati, sempre molto schivo, definito molto riservato, passato in una residenza sanitaria assistita per anziani gli ultimi anni, in una casa di riposo di Spicchio a Lamporecchio, in provincia di Pistoia, e poi alla fine ha detto: si lasciano tutti i miei averi per la cura degli anziani. E quando è stato aperto il testamento, non aveva figli, non si era mai sposato, il valore dell'ascito è di 1,5 milioni di euro in contanti e 3 milioni di patrimonio immobiliare, insomma una villa, una villetta, una casa a Collodi con terreni. Insomma, la sorpresa, la lettura del testamento del nonnino senza figli. Ha vissuto da clochard, qualcuno dice in maniera molto spartana, una vita passata per gran parte in Libia. È la storia di Giuseppe Pizza, era ricchissimo, lascio 4 milioni agli anziani. Lo trovate sul Quotidiano Nazionale a pagina 20. in primo piano. Alle 7.35 minuti, allora, la notizia politica del giorno certamente è il passaggio parlamentare, i due passaggi parlamentari. Ieri Berlusconi, il governo, ha incassato il decreto sviluppo, è stata approvata la Camera, ora andrà al Senato con il voto di fiducia, è arrivata a 317 voti, una fiducia mai così ampia nel governo Berlusconi. E poi Berlusconi ha parlato al Senato, ci sarà un altro voto di fiducia per il discorso era stato anche stimolato dal Presidente della Repubblica Napolitano per la questione del rimpasto di governo. Cosa ha detto Berlusconi? La crisi è una follia, sarebbe un disastro in questo momento, ora giù le tasse, entro l'estate solo tre aliquote e più basse, così racconta il Sole 24 Ore a pagina 4 nella cronaca parlamentare di Barbara Fiammeri. Poi ha detto Berlusconi: non resterò premier a vita. Quanto alle presunte divisioni con Tremonti, di cui parlano molto i giornali, Berlusconi le ha minimizzate, scrive Barbara Fiammeri, bollandole come grottesche, surreali. Anche se fa notare il Sole, il ministro dell'economia non è in aula quando il premier pronuncia il discorso. E poi, finito il discorso di Berlusconi, c'è stato anche un breve colloquio sempre col ministro dell'economia. Anche per il Corriere, Berlusconi in Senato: no a una folle crisi al buio, io non sarò premier a vita. Anche sul Corriere viene messa in risalto questa frase, anche se appunto poi, come al solito, si esercitano i retroscenisti della politica. Berlusconi ha detto: ma che crisi e chi, ma che problema con Tremonti? In realtà, secondo il Corriere, secondo la stampa, ci sarebbe stato proprio una fonte di ulteriore scontro tra i due, finito il discorso di Berlusconi al Senato. Sembra che l'ultimo contrasto, racconta per esempio Marco Galluzzo sul Corriere, sia stato sul governatore futuro di Banca Italia. Per alcuni senatori che hanno parlato con il Cavaliere, Tremonti avrebbe ancora una volta minacciato le dimissioni nel caso in cui il successore di Mario Draghi non fosse Vittorio Grilli. Di tutto questo ovviamente non ha parlato Berlusconi nel suo discorso. Anche per la stampa, retroscena di Amedeo la mattina, ci sarebbe stato sulle tasse una nuova lite tra premier e Tremonti, la riforma del fisco solo una legge delega per il futuro. E poi si sarebbe lamentato Tremonti con Berlusconi del fatto che il premier abbia parlato non solo di tre aliquote ma addirittura più basse, e non era questo l'accordo, secondo la stampa, tra i due, mentre Berlusconi ha promesso questo. Insomma, intanto è arrivata la fiducia. E il Sole 24 Ore con Marco Mobili a pagina 5 sul decreto sviluppo che cosa fa? Beh, racconta con molta chiarezza, con anche un'infografica molto chiara, le misure modificate sui crediti d'imposta, sui distretti turistici, le opere pubbliche, l'edilizia, i mutui, l'accertamento esecutivo, le ganasce fiscali, la riscossione ai comuni, tutto quello che come era prima. E le misure modificate, come sarà ora con l'approvazione del decreto sviluppo. Approvazione che, ripeto, non è definitiva, ora ci sarà il passaggio al Senato. Insomma, la maggioranza c'è stata, però c'è da dire che anche su Libero, basta vedere l'editoriale del direttore Maurizio Belpietro, c'è un pochino di critica. Il titolo di Libero di prima pagina è questo, infatti: la maggioranza c'è, adesso usatela. Maurizio Belpietro scrive: il Cavaliere col voto di ieri ha riaffermato di avere i numeri per continuare a governare, nessuno può inventarsi una coalizione diversa da quella che uscì dalle urne. Ma è proprio questo il punto, chiarito che il Presidente del Consiglio l'ha spuntata coi suoi avversari. Resta da vedere a che serve questo successo. In pratica vorremmo capire in quale direzione sta andando il governo. Va avanti, sì, ma dove? Per fare che cosa? Altrimenti aspettiamo novità su giustizia e tasse, scrive Belpietro, altrimenti è stato inutile anche riaffermare la vittoria, la fiducia con i numeri parlamentari. E poi insomma la politica si concentra anche sulla cronaca politica, su quello che è la maretta fibrillazione all'interno della Lega per il terzo giorno consecutivo. Il carroccio resta in fibrillazione, il caso ora è quello di Marco Reguzzoni, che è il capogruppo della Lega. Secondo il Corriere è verso la sostituzione, per Bossi è tutto normale, dopo un anno il capogruppo andrebbe cambiato. Sta di fatto che Reguzzoni viene definito uno di dei componenti del cosiddetto cerchio magico, cioè le persone più vicine a Bossi. Lui si inalbera sempre, dice: il cerchio magico non esiste, è un'invenzione di voi giornalisti. Sta di fatto che Marco Reguzzoni, molto vicino a Bossi, potrebbe essere sostituito oggi. C'è anche sullo sfondo le voci di cui si parlava nei giorni scorsi di un possibile tentativo di blitz per commissariare il segretario nazionale lombardo della Lega Giancarlo Giorgetti, un tentativo di blitz che è stato poi smentito ieri dallo stesso Bossi. Insomma, comunque c'è una Lega che per i vari giornali fa notare delle spaccature all'interno, da una parte i cosiddetti maroniani, dall'altra parte i cosiddetti bossiani, no? Sullo sfondo anche, ricordate quello striscione apparso a Pontida, Maroni presidente del Consiglio, cioè pensare a anche a un Maroni che possa prendere in mano in futuro la Lega. Vabbè, noi come detto nel nostro sondaggio ci concentriamo sulla questione della P4, l'inchiesta le cui paginate oggi sono spiattellate su tutti i giornali, tutti, proprio tutti. E allora, da cosa si evince da questa inchiesta? Beh, certamente che questo Luigi Bisignani arrestato parlava con tutti, ma proprio tutti, ministri, imprenditori, giornalisti, uomini d'affari, manager, sindaci, un frate, addirittura sta arrivando il Papa ad Assisi e ad Assisi chiamano Luigi Bisignani per capire come comportarsi, cioè una persona certamente molto influente dai contatti smisuratamente ampi. Inchiesta P4, il Sole 24 Ore con Marco Ludovico lo butta sulla bufera sulla RAI. Ne abbiamo parlato ieri, i contatti tra Bisignani e l'ex direttore generale Masi, no? Che diceva anche frasi esplicite su Santoro, gli stiamo a far culo, no? lo stiamo buttando fuori. Addirittura pare che la lettera di richiamo a Santoro scritta dall'avvocato, dalla RAI, dal direttore generale Masi, è stata praticamente controllata da Luigi Bisignani. No, scrivi così, poi metti questo, poi fai riferimento a questo, cioè... Allora è scoppiato il caso all'interno della RAI col consiglio di amministrazione che dice dobbiamo capire che cosa succede per quel che riguarda l'indipendenza della RAI. E poi, ripeto, intercettazioni di tutte. Il Fatto Quotidiano mette un elenco, per esempio, delle amicizie. Tutti coloro che chiamavano Gianni Alemanno, dalla A di Alemanno, dalla B di Barbareschi o Italo Bocchino, la C di Roberto Castelli, la D di Roberto D'Agostino, cioè vale a dire Dagospia, e Massimo D'Alema, insomma tutti dalla A alla Z, tutti gli amici, c'è Mauro Masi ovviamente, i ministri, la Prestigiacomo, ecco la Prestigiacomo era una delle più assidue frequentatrici secondo queste 19.000 pagine di inchiesta degli uffici di Luigi Bisignani, tra l'altro disse anche questa frase, se escono le intercettazioni mi rovini, ecco sono uscite ovviamente le intercettazioni. La Prestigiacomo in una conversazione con Bisignani riportata da tutti i giornali, oggi sui giornali, dice... Berlusconi dovrebbe fare questo se è intelligente, ma purtroppo non lo è. Insomma, questa frase certo che di reato penale non ha nulla, ma non farà passare, credo, un bel quarto d'ora nei rapporti tra il ministro dell'ambiente e il presidente del Consiglio. Prestigiacomo, Berlusconi purtroppo non è intelligente. Questo titola, per esempio, La Stampa a pagina 9. Per il Fatto Quotidiano sono la RAI e l'ENI, le due società, e si mettono in risalto i rapporti tra Scaroni, l'amministratore delegato dell'ENI, e Luigi Bisignani. Per Repubblica c'era anche un ufficio segreto, l'ufficio molto blindato di Luigi Bisignani, e c'è il racconto di come la Procura di Napoli sia riuscita a fare queste intercettazioni ambientali, perché Luigi Bisignani, racconta Repubblica pagina 4, cambiava continuamente schede e numero di cellulare, e come hanno fatto tramite un sistema di registrazione informatico che si è infilato nel suo personal computer della Procura di Napoli con un sistema chiamato Querela, è un file inviato tramite una mail truccata il 2 novembre del 2010 che praticamente ha colonizzato, trasformando in una gigantesca microspia senza l'ausilio di provider esterni, il PC di Luigi Bisignani. Da lì la Procura si è inserita con un file elettronico nel PC e ascoltava in presa diretta tutto quello che diceva Luigi Bisignani nel suo ufficio, la sua segretaria, da lì è partito tutto, poi le intercettazioni anche telefoniche. Vabbè, ma davvero ci sono paginate e paginate, ne parleremo alle 8.30, avremo ospite il direttore del giornale Alessandro Sallusti, il direttore del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro, per capire se di questa inchiesta cosa c'è di concreto. Vittorio Feltri con la sua ironia graffiante, scrive un editoriale in prima pagina, sorrido già perché il titolo è questo: con Bisignani ho un legame intestinale. Racconta Vittorio Feltri, dopo aver detto praticamente le intercettazioni una vergogna: una volta un mio fornitore di piastrelle, ed è vero, finì in galera perché disse al telefono: allora cosa aspetti a portarmi la roba? Si riferiva a piastrelle, ma racconta è stato 10 giorni in carcere perché gli inquirenti pensavano si riferisse alla droga. E poi Feltri scrive: una volta gli ho parlato una memorabile circostanza, gli ho parlato al telefono anch'io a Bisignani, ebbi un'informazione riservata da una signora perché Bisignani soffre di diverticolosi, ma grazie a una cura miracolosa ora sta bene. E poiché fra chi è affetto dalla stessa malattia si instaura una sorta di complicità, mi azzardai a comporre il suo numero e lui fu squisito. 3 pastiglie di Normix al D, mi disse. In cambio non volle nulla, neanche una breve sul giornale. Insomma, il mio legame col presunto grande maestro della P4 è tutto qui. Un legame intestinale. Devo vantarmene? In primo piano. Vi ricordo che alle 9 Oscar Giannini ospita il presidente dell'antitrust Antonio Catricalà, che ieri ha lanciato questo allarme, il titolo di apertura di prima pagina del Sole 24 Ore: le liberalizzazioni al palo, e a pagina 2 le riforme sono ferme, priorità su ferrovia, autostrade, aeroporti, banche, assicurazioni. Di questi temi molto concreti che riguardano tutti noi cittadini italiani ne parlerà Oscar Giannino poi alle 9 con Antonio Catricalà. C'è poi da segnalare, sempre in ambito giudiziario, una paginata sul Corriere della Sera, a solo il Corriere, Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, vale a dire i due cronisti di giudiziaria principe del Corriere, che raccontano di questa inchiesta che coinvolge l'ENI, tangenti sul petrolio in Iraq e in Kuwait. L'ENI sotto inchiesta, i PM dicono lo schermo dei cellulari lituani. Avevano utilizzato dei cellulari della Lituania. Le persone che sono state arrestate si chiamavano il Lupo, Panatta, lo zio Tom, questo nelle intercettazioni, ma è tutto intercettazioni, ma questo non è bastato, secondo Ferrarella e Guastella. Gli inquirenti, la procura di Milano, hanno fatto degli arresti. L'accusa è quello di aver versato una serie di tangenti all'ENI per essere ammessi a far parte di appalti da miliardi di dollari che l'ENI ha in Iraq e in Kuwait dal 2010. Queste le accuse, trovate tutti i dettagli a pagina 8. Mentre, sempre che tra il giudiziario, non solo, il politico, pare sparita, se siete interessati, o sparita, si sa dov'è, Rubi è in Messico, ma secondo Libero si vocifera che Rubi ruba cuori potrebbe rimanersene in Messico. Ha già saltato un'udienza, era attesa a Messina per rispondere delle accuse di furto. Secondo qualcuno il 27 giugno c'è l'udienza del processo per sfruttamento della prostituzione, in cui è imputato anche il Presidente del Consiglio. No, ecco, questa è l'udienza in cui viene imputati Lele Mora e il direttore del TG4 Emilio Fede e Nicole Minetti. Pare che l'udienza preliminare non si presenterà, ma soprattutto pare che Rubi, prima di partire per il Messico con il suo fidanzato, abbia detto a molte persone: ma se io mi trasferissi in Messico, secondo voi potrei lasciarmi tutta questa storia alle spalle? E pare che il suo fidanzato abbia ceduto i 2 locali che gestiva a Genova. Insomma, Rubi rubacuori rimarrà in Messico per sempre, non la vedremo più, chi lo sa, non si presenterà più ai processi? Mistero. Intanto vi ricordo che parleremo di TV nella nostra intervista. Avremo ospite il direttore di Rai 3, Paolo Ruffini, alle 8:20, per parlare anche dei programmi di Rai 3 che sono più in discussione, per esempio il report di Milena Gabanelli e quello che succede anche in Rai. E soprattutto c'è un'anticipazione del Fatto Quotidiano di Carlo Tecce a pagina 9, secondo la quale la 7 avrebbe ormai chiuso con Roberto Saviano. Sapete che qualche giorno fa Fabio Fazio e anche Saviano ha scritto una lettera a Repubblica, ha fatto un'intervista Saviano dicendo: non farò più Vieni via con me, l'esperienza di Rai 3 la faremo altrove. E secondo il Fatto Quotidiano ormai c'è l'accordo con lo scrittore, manca solo la firma, 5 serate da solista e poi Vieni via con me con Fazio. Quindi sarebbero 2 programmi, 5 serate da solista di Roberto Saviano e poi Vieni via con me, che traslocherebbe a La 7. Questo secondo il Fatto Quotidiano è l'accordo già definito. domani ci sarà la presentazione dei palinsesti di La Sette, quindi domani si svelerà il mistero. C'è molto di scuola, beh, intanto in bocca al lupo, si può dire in bocca al lupo, sì, si può dire. Vabbè, non dico altre cose, quella roba lì della balena, insomma. A tutti gli studenti che oggi si stanno portando nelle scuole perché inizia la maturità, anche se c'è da dire che le polemiche non sono soprattutto sui cosiddetti test invalsi delle scuole medie. Scuola e bufera sui test invalsi, titola Repubblica. Ci sono errori, valutazioni da rifare. Addirittura è la prima pagina dell'Unità. Mal di test. E c'è la foto del ministro Gelmini. Disastro Gelmini per l'Unità. Vale a dire, le griglie del test invalsi sono sbagliate. E quindi i test di cui avevamo parlato anche noi, che erano stati anche contestati per esempio da alcuni sindacati della scuola, è arrivata una mail ai professori prima del test invalsi dicendo: guardate che c'è un errore, ci sono degli errori nelle griglie, per cui se i punteggi sono 20 bisogna ricontrollare le risposte del gruppo A, se le risposte sono 16 bisogna ricalcolare tutto, insomma un mezzo disastro, pare, al quale invalsi dice abbiamo rimediato. Però ci sono già molte polemiche, medie, test, tutti sbagliati, voti da rifare, così titola anche Il Secolo, 19 a pagina 6. Vabbè, questo è per quel che riguarda la scuola. Voglio chiudere con due notizie di sport, la prima sempre sul Secolo, ma la troviamo anche nei giornali sportivi. Maroni, mai più tifosi in gabbia. Il ministro dell'Interno annuncia dall'anno prossimo si potrà sperimentare il calcio negli stadi senza barriere, un po' come avviene in Gran Bretagna e Inghilterra da tanti anni. Via le gabbie, sugli spalti più tifosi e meno agenti, ingresso vietato ai violenti e facinorosi, largo a gole famiglie. Questo è il calcio che sogna il ministro dell'Interno Maroni, non solo il ministro dell'Interno Maroni, un po' tutti. Insomma, tra un anno per il ministro avremo stadi all'inglese, per l'appunto senza le barriere, con i tifosi a contatto col campo. Ma staremo a vedere. E infine, insomma, la Gazzetta dello Sport, Intervallo titola: oh, cari precari di tutta Italia, sempre, credo che sia in via Durini la sede di a Milano dell'Inter, perché insomma c'è ancora questa panchina vacante, chi la sa. Chi non lo sa, sono, pare, le ultime ore, 24 ore, poi Moratti ha detto che ci sarà l'allenatore, quindi affrettatevi se volete mandare il vostro curriculum.